Allora, buonasera, siamo qua con Antonio Mazzeo del comitato No Bus. Siamo qua a Niscema oggi 30 marzo e a una vigilia di Pasqua andiamo a fare una passeggiata qua in queste campagne per dire cosa? Questo è il punto di arrivo di una mobilitazione che negli ultimi mesi ha visto centinaia, se non migliaia, di militanti, di donne, giovani, siciliani che per 24 ore al giorno hanno bloccato gli ingressi, hanno bloccato il passaggio dei mezzi, di fatto revocando i lavori dal basso, impedendo che si completasse l'installazione del MUOS, quando al contrario la politica, le istituzioni, nonostante il battaggio sui media, annunciavano di giorno in giorno la sospensione dei lavori che mai si è fatta. Questo è il risultato di una mobilitazione straordinaria, è stata una giornata di festa, voleva essere volontariamente una giornata di festa perché era la conclusione, anche con successo, perché se oggi la revoca da parte dell'autorizzazione della regione è venuta è perché c'è stata una pratica di azione quotidiana, di lotta in cui la revoca è stata fatta dal basso, è stata fatta dai corpi, è stata fatta dai blocchi stradali. È il punto di arrivo, ma diventa oggi il punto di partenza di una mobilitazione, perché oggi la battaglia si sposta anche a Roma, non solo, ma anche a Roma, perché in quelle sedi in cui il nuovo Parlamento, il nuovo governo deve prendere atto della volontà popolare, della volontà delle mobilitazioni dal basso, e come un qualsiasi notaio deve riconoscere che il MUOS in questo paese non ha diritto di cittadinanza e deve immediatamente imporre agli americani di portar via il MUOS, quella parte di antenna che hanno già installato, aprendo la vertenza, che è quello che i movimenti sociali chiedono, che anche le altre 46 antenne già installate da 20 anni, che non sono soltanto una bomba elettromagnetica, che non sono soltanto un problema ambientale, ma che sono uno strumento di guerra con cui gli Stati Uniti da 20 anni ordinano e coordinano le operazioni delle unità navali e dei sottomarini atomici in tutti gli scenari di guerra a livello internazionale. Questa base non ha diritto di cittadinanza in questa regione, in questo paese, deve essere immediatamente smantellata. Ovviamente è soltanto appunto l'inizio di un percorso che per tanti significa anche una battaglia antimilitarista, che questo, come accennavi prima, oggi si incrocia con un conflitto sociale, cioè di guerra interna e guerra esterna, fatta sulle popolazioni inermi, in un momento di crisi, ecco, questo spauracchio della guerra, come lo puoi connettere, che connessione sta insomma con i conflitti sociali interni e con la retorica di una politica che non risponde più e non dà più neanche delle prospettive? Io credo che il movimento abbia dato una risposta unendo insieme tre grandi mobilitazioni: il 16 marzo a Messina contro il ponte sullo stretto, il 23 marzo in Val di Susa contro la vergogna dell'alta velocità ferroviaria, oggi a Niscemi contro la base militare, contro i processi di militarizzazione, collegando i due aspetti, le grandi opere e i processi di militarizzazione della guerra, che sono la causa principale della crisi economica e finanziaria strutturale odierna. Se oggi c'è stata la crisi, se oggi c'è stato l'enorme sperpero di risorse finanziarie pubbliche, ecco le conseguenze di far pagare la crisi ai lavoratori, tagliando i servizi, tagliando l'istruzione, tagliando l'università, tagliando la salute, tagliando il diritto all'occupazione. Ma i soldi per le armi ci stanno sempre. Perché le scelte neoliberiste delle grandi opere, della cementificazione dei territori, delle grandi infrastrutture che sono servite ad arricchire le mafie a livello delle borghesie mafiose nazionali, o i processi di militarizzazione arricchendo i complessi militari industriali italiani e statunitensi, io credo che questa è stata la grande risposta del movimento, ed è un momento storico in cui aver chiuso un legame che non c'era mai stato in Italia, tra chi si oppone a livello dei territori contro le cementificazioni e chi vede anche in modo più globale la lotta al neoliberismo e la lotta alle guerre a livello internazionale. Mi sembra una fase molto importante per il nostro paese e credo che anche a partire da questo momento, oggi ci sono i Notav, ci sono i Nodal Molin, ci sono molti dei soggetti, tanta partecipazione da tutta Italia, veramente. Molti dei soggetti che a livello territoriale si stanno opponendo ai processi di militarizzazione e ai processi di cementificazione. Io credo che anche questa sia una grande risorsa e anche indichi una strategia di lotta. E non questo soltanto volevo chiederti, Antonio, cioè molti magari stanno, secondo me, con grandissima retorica e anche con qualche operazione un po' truffaldina, andando a spiegarci che ci sono nuovi spazi di democrazia o anche di cambiamento, però io credo che penso che invece queste siano le occasioni in cui qualcosa dal basso sia non soltanto protagonista, non soltanto partecipe, ma diventi anche un possibile protagonismo per cambiare realmente le cose. Sono perfettamente d'accordo. Come tra l'altro Niscemi è stata una palestra di educazione politica per centinaia e migliaia di niscemesi, donne e giovani che per la prima volta hanno affrontato la politica in quanto tale e l'hanno affrontata subito in modo radicale. Abbiamo visto gli striscioni sui balconi, la terra buttata per strade con le azioni di blocco vere e proprie e concrete, insomma, e anche le porte le repressioni. Ricordiamo i compagni strazionati, anche le donne nomos, eccetera eccetera. Come è stato? Decine di denunce che sono arrivati, fogli di via eccetera. Da questo punto di vista come è messo su questo fronte, diciamo? Anche questo è stata una palestra di educazione. Spesso uno pensa che c'è bisogno di anni per arrivare a un livello di coscienza e di conflittualità. Invece il MUOS, nell'arco di qualche mese, donne, uomini e giovani che mai avevano fatto una sola manifestazione, neanche un corteo, sono trovati a doversi confrontare con un livello di violenza istituzionale, di violenza repressiva inimmaginabile. C'è stato anche un tentativo di colpire alle spalle, di lavorare ai fianchi, di dividere il movimento, soprattutto in queste ultime settimane, cercando di dividere i nomuos buoni, da cioè parte di chi? Da parte delle istituzioni, da parte di alcune forze politiche, da parte anche, lo voglio ricordare, anche da Crocetta e dall'entourage di Crocetta, cercando di dividere tra il movimento dei buoni, i nomuos che sono tolleranti e parlano con tutti e si fanno anche convincere dal console statunitense, e i movimenti non muos dei cattivi, che sono quelli oltranzisti, che non sono disponibili a trattare l'area fino a quando, diciamo anche. Le aree di movimento che si oppongono e che non sono disponibili a mediare sulla presenza della base militare. Ebbene, si è tentato di dividere, ma credo che il successo della manifestazione di oggi dimostri che il potere, l'establishment ha tentato la divisione, ma è riuscito veramente sconfitto anche da questo tentativo. Parliamo di, hai citato prima la repressione, giusto perché anche comunque l'avrei seguito ieri il caso della mobilitazione sulla mamma di Aldo Brandi, eccetera. Ecco, se ci puoi dire una battuta su questa ignobile azione da parte del COISP, anche perché ci stanno passando decine di poliziotti bardatissimi, come al solito, con caschi, elmetti, eccetera. Credo che sia una battaglia, anche allargando su questo, un momento magari per chiedere veramente che si mettano i numeri, i caschi sull'elmetto, ma soprattutto che cambino proprio l'assetto, insomma, di, perché molti adesso stanno cominciando a ricordare anche su a girare questa storia delle polizie europee mandate in Grecia, eccetera. Quindi credo che una battaglia comunque antimilitarista vada anche fatta a livello europeo. Cioè, partendo anche dal caso di Patrizia, poi insomma, una tua riflessione. Il caso che è successo ieri è l'ultimo elemento che dimostra e dovrebbe preoccupare anche le aree moderate, anche le aree liberal, le aree che comunque si pongono il problema dei diritti umani, perché sono elementi che dimostrano che c'è, dopo tentativi anni che si è parlato di democratizzazione delle forze dell'ordine, c'è un ritorno al passato in cui aumentano all'interno delle forze di polizia aree estremamente sensibili alle versioni di destra, aree che sono politicamente e convinte fasciste e neofasciste. Dovrebbe preoccupare non soltanto ovviamente le aree antagoniste, le aree del movimento, ma dovrebbe preoccupare anche chi ha le aree moderate, che hanno nel cuore le sorti della democrazia in questo paese. C'è sicuramente una fase regressiva dove, lo dicevi anche te, aver istituzionalizzato Eurojustice, una polizia che ha potere di controllo, potere di indagine, senza dover passare dalla magistratura e senza dover passare a quelle che sono le norme previste dalla legge italiana e dalle garanzie previste dalle norme italiane e dalla Costituzione, è un fatto gravissimo. E non è un caso che oggi i movimenti in Grecia si trovino come avversari la borghesia mafiosa greca, l'imprenditoria greca, che usa due strumenti particolari, Eurojustice e Alba Dorata, ossia l'organizzazione di destra, esattamente come succedeva a fine anni 60, anni 70 e buona parte del sud Europa, in cui il binomio versione di destra, forze di polizia e forze armate era lo strumento per impedire la trasformazione reale e democratica del nostro paese e impedire che i movimenti studenteschi, operai e sociali riaffermassero la democrazia sostanziale del nostro paese. Ringraziamo Antonio, allora buon proseguimento, grazie.